Chi è? Buongiorno. Chi c'è? Avanti, chi è? Avanti, chi c'è? Chi c'è? Con la buonasera. Chi è? Chi c'è? Chi? Non ho capito. Avanti. Chi sei? Antonello! Cucù. Ma senta, Tore. Siamo solo il Tore. Come ma chi? Ma senta, Tore, mi ascolti? E a tratti ti sento, ma chi? Tore, devo essere in bicicletta girando. Sì, insomma lì, in movimento solo. Aspetta che mi fermo. E adesso ancora tratti, mi senti? E arrivi tratteggiato, ma chi forse perché sono un gommino, forse per quello. Ma qua arrivi bene tu, limpido, chiaro. Io ripeto, sono in macchina in movimento. Un attimo di quel ricco, ci sono arrivato da Antonino, riprendo fra un po'. Tore, mi ascolti? Attento, Tore. Ascolti, ma chi io? Non mi senti? Io sì che ti sento, tu mi ascolti? Tore, vai. Ah, mi ascolti? Non dare a bando, non mi accosti. Aspetta, vedi un po' adesso, mi ascolti? Io sì che ti ascolto, non so se mi ascolti tu. A scariche sento, tutto a scariche. Non ti posso fare nulla, esista. Se ti ho sentito, ma sei in basso del radio. Parla ancora, vedere. Ma ci sei? Tu sei a Bacchisio. Sì, a tua ti ho sentito, dimmi. Sì, anche sono Google Antenna di Fura. Ho detto che è a 2,8 e adesso lo sto facendo a 19 la stina. No, adesso sto usando quella di Furi, quella del tetto. Ma di casa ce l'hai qua? Sì, dentro casa sto facendo, sto provando a vedere. Ok. Adesso ci trovo di nuovo adesso. Arrivi bene con quella? Con quella di Furi? E con quella sì, grazie. Sì, a fondo scala. Io sono alla cabina, sono un po' da Graziella. Sì, dovrei mettere tutto giù e provare a vedere. O metterlo fuori. Hai capito? Sì, mettilo fuori, metti. Per vedere se va. Però le stazionarie qua, ce l'ho su un cavalletto, ce l'ho, in ferro. Aspetta, mi guarda, lo intruccio. Oh, Bacchi. Dimmi. Stavo dicendo, ma dimmi, il cavo, io ce l'ho quasi, questo mi sembra che sia 2,5 metri, 3 metri. Mi sembra che sia il cavo. Dai, aspetta che c'è il mezzo al traffico. Dai, ci sentiamo dopo quando arrivi in garage. Mi ascolti, dottor? Dottor Squalo. Attento, dottor Squalo. Ehi, signor Bacchi, dimmi. Ma già mi assenti, sì, sei dentro il garage solo. Allora, riuscito ci sei? No, adesso ne sto provando un pezzo da 30, vedete, da 30 centimetri. Quella che ho messo da 19 mi dà 2,1. Ma sai, stavo pensando, non sia la bobina anche di saldata, Capito? Quella bobina dall'interno non sia di saldata, perché hai fatto contatto o non contatto, allora ti dà stazionare. Non penso, perché l'ho provata con il coso, con lo stilo lungo nella 27, e mi dà 1,1 mi dà. Con lo stilo lungo 1,1. Strano. La 27 però. Sì, ma tu hai misurato la 27 con quello strumento della cosa, delle OKS. No, con lo strumento della 27. Ah, con lo strumento della 27. Non ti so dire. Strano però, Strano. Lo strumento parte giusto? Da zero parte qua. lo strumento parte da zero, ci sono le lineette. No, io da me c'è il numero, c'è scritto, no, aspetta, non me lo ricordo, esce il numero in blu. Sì, dopo mi esce il numero, mi esce 2,01. Sì, abbassando allora. E se metti più corto cosa succede? Ho messo da 19 e mi dà 2,1. Se invece 19 lo fai 17. Aspetta, sto provando tutti, adesso metto quella da 30, metto, a vedere. Provo a vedere un po'. Perché devi arrivare almeno a 1. Sto provando tutte, Bacchi. Capito. Va bene, io vado verso casa adesso. Io chiudo, è stato qua, non tanto lascio tutto in macchina. E così è pronto per domani. Sì, ok, Bacchi. Ci sentiamo dopo. E ahia, dopo, così sappiamo i risultati. E chi c'è? Giuseppe! Giuseppe! Passa, sì. Nemmeno un tacchetto, nulla. Spostati a vedere. Non ti sento più adesso. Poco fa ti sentivo. Adesso va bene. Ehi, non puoi prendere un del genere, non ti puoi prendere nulla. È anche troppo che arrivi qua. È un'antenna esterna quell'apparecchio. Perché calettata dentro. Sicché non si può mettere un'altra antenna, capito? Non è sotto niente. E spostati a vedere, dai. Chiama dopo. Già sono in ascolto. Attenzione, Gio Maria. Chi è che chiama? Gio Maria, mi ascolti? Certo che ti ascolto, fondo scala. No, perché sto provando l'antennino che ho fatto, come mi ha detto Bacchisio, però mi dà 1,59 di stazionarie. Quanto? 1,59. 1,59, non è che sia molto, no? Ne me dà 2. E invece con l'altra mi dà zi 2, mi dà zi. Vabbè, ma non è che siano pericolosi, 1,59 to. Non è che siano pericolosi, capito? Speriamo di no. Catta, mettendo blu e rubio, blu e rubio. Allora, io ce l'ho 1,58 qua. In questo antennino che ho fatto io. Parlo sempre con questo e è tranquillo, capito? Per cui non ci sono problemi, capito? Guarda che 1,59 non sono molti, capito? Non arriva nemmeno a 2. Abbastanza da 1,60 a 1,63. Fa vedere, ecco, 1,59 ci scende. Beh, prova. Piano piano, piano piano, pazienza ci vuole tu, Ci vuole pazienza con queste antenne, poi specialmente che non c'hanno il radiale, capito? È l'antenna della 27, con uno stilo da 18 centimetri. Da 18? È un po' difficile attararla, è un po' difficile tu. Non è tanto facile così piccolo lo stilo, capito? Infatti, allora voglio provare da 1,30, vedi? Prova, dai, già sono qua, c'è anche Giuseppe che sta facendo le prove, con un portatilino piccolino, anche lui è vicino a me, io è proprio sulla Woody Woody, però al momento sentivo un mattino. Sono di quegli apparecchietti picchidocco, come cavolo si chiama, che non si può mettere nemmeno un'altra antenna perché è tutto calettato, capito? Infatti, è così. Aspetta che provo a vedere. Fai. Chi è? Su Boboi. Nessuno, beh. Cosa c'è? Non c'è nessuno. Ma ho capito. Ho detto, non c'è nessuno. E ci sei tu e io. E gli altri, mormiti su. E gli altri sono andati a pescare. Bebe, andiamo via, andiamo. Oh yeah, per carità. Cosa c'hai da lamentarti? Cosa c'hai? Dimmelo, dimmelo, se posso farci qualche cosa. Giuda, ma ci ho fatto la doccia a Maramà. Tutto bello, fresco, nuovo, nuovo. E oggi è San Valentino, no? E beh, regalato gli hai la rosa. E allora, una rosa da 50 euro. Euri. Beh, certo che tu te lo puoi permettere 50 euro una rosa. Non sono tutti se lo possono permettere. Tu gli hai le possiedi, così che meglio così. Ma noi solo uno accompagnato, con l'anellino, Bravo, bravo. Bravo, bravo. E con 50 euro mangi tutta la ghida. Vabbè, noi gli altri pescano. Poi una bella camicetta si ha comprato. Ti credi di una tu sai che... E la sera ci pigliate pure un paio di volte. Allora va la 40. È vero. E allora non rimpiazziano a chi non vede un gommino di gomma. Allora ci buciate un cazzolato e vi l'ha piazzato. Ma che abbiamo bisogno che vi mancava un gommino di gomma. Addirittura. Ebbene, c'è di già che vi mancava. Il gommino ci mancava là sotto il tacco. Ebbene, un cazzolato gli avrà posto. Io per la giusta sono un negozio di cibo e evidentemente mi sono dimenticato. E andata a da pure un'altra volta, quella sera, ed era di tutti i gusti. Infatti, a distanza telefono alla ditta, vengono e se le portano via, per la voce, non ce n'era bisogno manco il padrone. A me che canto fidelia, paghi si volte che un padrone. No, che gli era arrivato il giorno prima, ha messo un campione in esposizione, E anche quel campione che ha messo non se ne ha avvisato. Vero, da come vi manca la gomma, tu quelli scicchetti, unici, il trampi, no? Anche io scicchetti. Ma dice, vabbè, oramai, se non è altro, mi posso punire un cazzo d'acqua. E le ho messo al calzolaio di zero due bizze di gomma, ma ogni all'altro, ma caro cazzolaggio vuoi andare? A fare i cazzolaggi ti vuoi bagatti, magari ci vuoi al mercato? No, quello che c'è vicino all'Eurospin, dopo c'è l'Eurospin a prendere cazzo bocca e caro ogni all'altro. Gli ho chiesto un laccio di quelli di cuoio per gli scarponcini. 5 euro. La dice, ma la coppia? No, l'uno. Cosa te ne dici? Aspetta. 5 euro. Bobo. La dice, mi sono messo due striscette a rete, insomma. Sono per le scarponcini che si stanno rompendo. 5 euro. Te ne dici. Non me ne piglio di stoffa. Ma già ne vendono lo stesso. E la merceria. Infatti. Allora, in cosa le vende di burro? In via l'Italia. Avvisa un rifornitore che ci vende roba a baccabandi, eccetera. In che burro li vende? Ma è caro anche quello, perché sono entrato un giorno a chiedergli una cintola, un cuoio. Cazzo, mi pare che mi avevi parato 60 euro. Ha già fatto dietro frutto. Ciao Marino. Dimmi tu. A uno, zitto tu. A uno è 65, a 67, 65, 58. Non comprare un bil nulla. Andava, che io la so così. E basta la cucina, mi ha detto. E non è tanto facile, non so che zenne. Non è tanto facile, però una 55 va bene, dai. Certo, la puoi stare un'ora no, con la portante abbassata, capito? No, infatti. No, lo lascio così, bro. E allora, io prima mi pensavo, ma oh, è che non ha più gara a fare queste cose. Oh, questo sto usando io adesso, 1,59, anzi 1,58, Sì, però sì, il bocco lo posso fare, però lo stilo è da 50 centimetri, più c'è 15 centimetri di un radialino, capito? Però se il bocco lo abbassa ancora, deve arrivare quasi a 1. Ma si prova di tutte le maniere, ma che sempre la matessi. C'è banco più lungo, zazza, c'è banco più basso, zazza, non matessi. Ma faccia sale da più bocca, è un macello, però abbiamo la salda così, abbiamo la salda così andava, per cui bene, lo senti, grazie a tu, attore. No, no, per niente, l'ho sentito un paio di passaggi corti, tutto a tratti, e anche basso. E a me mi arriva a fondo scala. E qui mi arriva così, mi parla attore, mi copi. Già ti copio, perché sono dall'altra parte del poggiolo. Adesso questo passaggio ti ho copiato meglio, riprova. Sono dall'altra parte del poggiolo, ecco cos'è, stavo provando le stazionali di questo antennino a vedere se vi pure di uscito, però lascio così. E adesso già ti ho copiato, basso sì, vabbè, adesso ti ho copiato, ma poco fa no. Beh, ma va bene, o perlomeno, io lo sento perfettamente, ha fatto scala qua. Va bene, infatti da te, vabbè, secondo la posizione dove si trova lui, va. Anche quello evidentemente la posizione che c'ha per me è favorevole. Sì, al campo tuo è favorevole, al campo di De Cosa sono coperto, di Graziano sono coperto. Ah, ecco perché, ho capito. Ah, sarà uscito a Puttedini, andavè. Se no, pazienza. Vabbè, se ci sono ostacoli già si sa, comunque adesso già ti sentivo, basta, ma già ti sento. Andavè. Vabbè, sto chiudendo, ok. Vabbè. Ok. Allora. E allora, cosa mi racconti? Grazie. Ma oggi un po' mi ho pranzato un po' di spaghetti col sugo e un hamburger con un po' di insalata e un mezzo panino, là. E poi una fetta di melone, di ghiaccio giallo, già era buono. E basta, niente. Poi casera me lo consegno un garruzzo, le rosi, a chi erano troppo larghe e non c'era lo spazio a mettere la cuffia. E allora gli ho abbassato il perno sia da una parte che dall'altra e già le ho adattate. Là. L'ho visto oggi, me lo quello giallo lì a cosa, a Lille, vicino alla centrale latte. Stavo per prenderlo, da voi invece ha già un amico, ha ragione, da ragionare, camminendo, e mi sono cominciato a imbigliarlo. Certo. E così che ma se mi dovrò andare, dovrò pigliare, è un biglio, A chi io, noi pure pigliamo un bel di voce, ogni volta che andiamo biglio due o tre di chi gialli. Ah, che è buono, Ehi, è buono, ma io l'ho preso quando avanti ieri mi sembra. Quindi la metà è ancora, è frigorifero. E oggi siamo mangiati io e Paoletta e mi figlio. Siamo fatto pure. Ma già ne ho altra frutta, c'ho clementini, mandarini, banane, pere, mele, e cos'è? È pieno di frutta, fraco le vado. Ma ogni fragola canta un pugno, chissà da ogni arrivi. L'ho assaggiata una ieri, già è buona. Ehi, arriva dalla Spagna arrivi, dalla Spagna arrivi, dice. Sì, i visoviserri adatti, bru più. Ma comincia, Fra poco va a cominciare a Burilonghi, fa al mese che entra là. Ah, io l'hanno passato, ve la giro dal razzo. L'hanno mangiato parecchi da chi si che va giù io in terrazzo, giù in avracola. Bella la piantina, già non si sono arruinati. Dunque le metterà anche quest'anno, penso di sì. Beh, volando, oggi comprare piantate in campagna, in sierra piccante. Certo, un anno e da voi sono mucci, però l'anno che ha piantato non ha posto un bene, è maturi puri, però noi erano i dati sauriti, capito? Questi 10 minuti che abbia piantato, cazzo, e poi allora tutto, non ha piantato più, andate a me il comporeggio. A me piace a mangiare, a fare la Macedonia, capito? Un po' per bocco tutto, mela, banana, pera per bocco, arancio, limone, di tutto per bocco. E mi piace la Macedonia, capito? Anche noi la facciamo spesso. Ma io in campagna, quando ero in campagna, chi lo più sta in campagna, vi la vi piantate, ogni anno li piantate. E ne buonia un bel, ma un bel, un bel. Ed era le buone, ben desaurite, anche i buoni dove avevo fatto il coso dove scorreva l'acqua, no? L'acqua della vasca che c'era fuori, della vasca della roba. E io mi lavava sempre il chili, quando mangiava mi pura, capi? E dunque io viveva sempre Eva. E non è poco ci arrivate, e ben di madura sta fuori te pure. Pura sindra un bel voce a giubbuccumi in campagna. Solo marazzotti non diventavano i manni manni, canto un pallone e buco. Pareva le volte, mezzo ruio, ruio, ruio, sangue, variare. Ti canterà nel ruio. Era buone. E io faccio la murichessa, faccio, che è grossa, Cazzo, canta la notte buone. Cattista come è stato a pigliarla, se non è attento si schiccia in mano, cazzo, e fa il sangue, cazzo. Ma se canto di buone da me, esso Maria, ma chi te, se si vuole poi passare, ma qui sotto a chi ne fare, quante cose ne fare, no? Mi metto tutti gli alberi di chissi, cazzo, ma di buona che faccia dura, cazzo. Ed è dossi dossi, ma ruio come il tuo sangue, ecco. Tu quando mangi, invece, poi ti digni pure il animale, i riti, ti digni, capito? Chi sa faccio in campagna? No, ma altre cose, altri fragoli non la ci butto più. No, nulla, cazzo, basta, non ha già piantato più niente. Però questi due pianti di murichessa e a villaggio. Gelso, come ti dice, no, il sassereso è murichessa. Un gelso, capito? Già lo so, lo vorrei piantare io un paio d'alberi, invece da me non ha già piantato. E abbiamo sull'albero di Lanosi, Lanosi ha fatto. No, c'è la lì vicino in campagna, la zia di Paoletta. Tutte le volte che la zia mi vive, mi ne la zia un cugnuto, un albero grande ne aveva. E beh, dimmi, tu, è anche buona era. E non ho mai piantato, già li pure ha piantato gli alberi, invece da voi mi sono uscito dal capo. La rosa già è andata in l'albero l'avevi piantato. E già ne fanno i nozzi. E già di cos'è oggi piantati. Però da poi tant'anni le cose non è che durano un'eternità e poi li pianti, Se si pianti magari dura, se ti pianti morivi e devi ripiantare. E certo se è più così. Ne moriva uno e ne piantavo due. E poi faceva così, era troppo pianto, uno ammazzava. Ammazzava l'altra, no. Allora, no, bisogna fare così. Quando muori, lasciamo liberarli un po' di aria, ma con la pianta dura di più, capito? No, leggi leggi, che hanno provato mai dei porchi. C'ero brutto. E da poi muore la pianta. Una linea l'ha divulgata, l'ha già mandata sotto. La radice in centro, era un ramo quella, un buco che c'entrava all'orizzo. Lo fermo. Tutte le volte la pianta si la mangiava a Trento e moriva la pianta da Gigliacci. Allora non ho più piantato. Tu mi ha messo di ferma chi? Chi sono gli altri tirati la giudaglia di Cruserracchino a baitarsi a cattavolo per minimo era lungo 20 centimetri, è grosso quanto è l'uritto. O se no, no, non è buono, faccio una pianta che fa zappare l'acqua, fatti. E vabbè, è assa, saranno 3 metri assa. E di ratti. Atta le fara a paracqua, che mangiare la come chiamo richiesta, la mattessi cosa, però vista mi nulla. Ma sa che turbone, si pigli un coso, no, un telo, lo buono in terra, i cuzzureggi, lo sai, mi pare che si pianta una cipicciuna, io no, che sotto lo bocciofolo. Sotto il campo sportivo, dove si assatto, a me pare la giuvettura che mi pianta. E la palacqua che si pianta. Venne pure di si pianta, venne una di me si conferma e mi ha giubato un bel dubbocco. Venne so pure no che sotto a roba a cuore, qua ero grazie al cielo. Ne ha parlato due ne sono la lampada di rovente, uno se l'ha fatta a pezzi, ma campagna la legna se l'ha portata. Da poi viene pure all'uscita la Vudivuti, dove ci sono le cooperative qua giù. E chi mi battesse, un altro che lo bazzano con paletta nella ciocca. Mi sa che per me mi ha già fatto un bel dubbocco. Infatti, chi se ne buono un bene, ma è faccia dura buoni. E costruisce il gatta, e su. Ripeto, a me piace ma è un bella Macedonia. Fatti la buona Macedonia dai chivi, capito? Per cui ti dico che cazzo ti faccia barruggio ruggio, ma ne mangia di sangue. Cazzo. La banana è bianca, la pera è bianca, no. Cazzo si può ricimettere in coso e deve fare la stessa colore, di sangue. Però è dolce, è piazza, piazza quando l'assaggi. Già vero zucco al burro, Però è poco come piazza a me quando fate la Macedonia ai minori, insomma. Vera un coso, un tipo di bocciudorra che veniva a campagna sempre con la moglie e infatti lo ricordo da questa morichessa fazia e ogni tanto veniva se lo bocciava un secchio di chi si secchi di cose ma sa bene me e poi buono pure un ricordo a te un bombone fino abbiamo una pianta bianca. Ma chi sa mi imbruttava troppo, era vicino alla cameriera, ogni volta passavo, gatta, rivolti, gatta, a beffa, chi mi farava e ti lasciava rivolti, gatta, la presenza in macchina e ti lasciava un zappetto, e da tutti in terra. Di che faccio? Sempre in sanità, ma, so, tre anni, butta tre nidi. Ehi, adesso tagliando l'ufficio, 10 minuti, da retro subito. E dopo, Tore. Cucù. E beh, finito. Buonasera. Signor Tore. Acchisio. Sì, avanti, buonasera. Buonasera a lei. Ah, Gio Maria, sì, lui è... Avanti. Bimbi, Bacchis. Tore, sentito la Gio Maria. Ah? Aspetta, ci hai sentito Tore? Stava facendo le prove. A una 5.5 le ha portate quell'antenino. Di più non scendono, capito? Tu la salusia, vabbè, a 1.55 va bene. Beh, 1.5 sì, ma stasera mi sembra detto che va 2.9 o qualcosa del genere. Infatti, tanto non è che stati ore e ore, no, a portarti il serino, sicché anda bene. Senta, per giù le 59, no, io, Perché voi c'ho tutta la sera va a vendere, non succede mai niente, capito? Non succede niente a capito? 1,55 non fa di niente. Va bene, dai, ma per chi non ve la fa di più, ma a passare di manco non ve la fa di più, Io, quello che io ho, 1,00. Ma sì, però non è tanto facile, capito? Chissà, Radio da San Luisì, ma si qua tutti, però se voglio me la posso parlare, però a chi dice, questa c'ha la, il radialino, capito? C'ha la, le cose, lo stilo da 50 centimetri, poi c'è il radialino da 15 centimetri, per cui se vuoi anche a zero la puoi portare questa qua, ma quelle d'acciaio hanno radiali, è difficile. L'acciaio no, ma l'alluminio o il rame si riesce a portarlo giù perché è più tenero. L'acciaio come fai a saldare? Nulla. Niente. E poi 1,5 si può anche tollerare, si può passarti sopra. Però se di più penso che scaldi pure. Poi c'è anche questo che no, che ci ha frequenza non è che sia tanto facile a portarle a zero, non è tanto facile, però 1,1, 1,2 non di meno, è a zero completamente, sarà difficile, però uno prova e certe volte almeno ti immagini e poi capita proprio che azzecchi proprio il punto giusto, capito? E poi secondo la posizione che ti metti non esci lo stesso, capito? Secondo la posizione che hai non esci, oppure se sei sotto adesso stasera quando ti ho chiamato io mi trovavo sotto i fili dei telefoni, lì si mangiano tutto, si mangiano. E dopo dovrebbe essere mettendo a posto tutto, attore! Capito. Non c'è nessun altro, tu solo sei già morito. Tore sta lavorando così. Eia! Non si risponde, Tore! Se te la farà, dava! Ha detto che si assentava un attimino che devi terminare, così che già rientrerà subito, bacchi. Bene, Graziano, grazie, è uscito se dall'ufficio. Graziano, nell'ufficio c'è. Grazie, a meno farà, sì. Ha saputo sul tavolone il pettore, ma lo farà, sì. Grazie. Mi piace la misina, ma cavanniro. Lui è obbligato e ogni tanto le vede, dice che lui va a rompere i cattoli, mi gatta. Specialmente che adduisce da Achillù come che ti vedi, mamma mia, è poche ferme, ma chi? Non li fa vedere, non li parliamo, Gianmarino, lo so qui. Ma chiedo ma chi su cosa, no? Fa di, capito? Per cui, per forse deve andare, vabbè. Va. Tore! Lasciamo rubare, dai, sennò io non finì più, Tore. Lasciamo rubare, già rientra da buio. Io ho chiamato, aspetta, Tore. Acisio? No, parla lungo però, non mollare. Ciao, Acisio. Ehi, avanti, Acisio. Marino. Avanti, buonasera, signor Marino. Allora, come andiamo? Come si va in radio, d'accordo? Come si va bene, dai? Sto andando a basso di radio, il trabicolino da base sto usando. Io sto usando quello piccolino, come sarebbe tanto meglio. Cioè, non trovo andare bene, dai. Allora, tu sei a scariche, aggiornati. E aspetta che cambio coso, patatà, metto il portatile. E allora probabilmente che sono andato le scariche io, però dai, mi attacco l'altro, ma ti dai. Adesso mi ascolti? A chi si va? E a Marino, avanti. No, guarda, sta sotto con molto QRM, perché boh, adesso non so se da me o da te. Non lo so, avanti. QRM ce li porti anche tu appresso. No, quell'apparato là ha scaldato. Sei in stazionarie, parecchie, a chilometri lì. C'è Gio Maria anche, avanti Gio Maria. Non lo sento a Marino, che se sono col gommino. Fate cambiare l'antenna. Che non lo sento col gommino, poi sono a parte dietro. Così che, ragazzi, è un miracolo, mi senti tu con questo gommino, Se... Oh, dimmi bene. Ma stasera quando ti ho chiamato, con questo ha risposto. Prova a cambiare l'apparecchio, Bacchi, metti con il poc'anzi, è probabile che io poc'anzi lo con l'altro, cioè le batterie scariche, dai. Io adesso sto andando con il coso, col portatile, però attaccato sull'antenna esterna. Hai capito? Come è stato a fondo, c'ho molto, molto correnne. Ho detto di riprendere con le poc'anzi, magari ero io. Con le batterie scariche ti ascoltavo basso. Prova ad attaccare l'altro, Bacchi. No, adesso ti ascolto bene. Gian Maria dice non ti ascolta perché è col gommino. Capito? Tu l'ascolti a Gian Maria. Adesso riesco a sentirlo anche io adesso, Buonasera Marino, ben sentito. Guarda, anche a te, probabile sono io allora, ti sento anche a te, Gian Maria. Al QRM, molto QRM c'ho in questo oggi. Avanti Giovanni, buonasera. Buonasera Mario, ben sentito. QRM c'è, allora mi sento QRM. No, probabilmente ce l'ho io solo, io sento molto QRM, mi sento come sotto fondo, sia te e sia Bacchiglio. L'ascolto ma c'ho molto QRM. Ripeto, probabilmente sono io, avanti Giovanni, fai girare. Ok, e anche tu ti porti appresso un po' di QRM, Bacchisio, mi stai collando tutto, adesso è più forte di poc'anzi era più debole, adesso invece è fortissimo, vai Bacchi. Sì, ha cambiato apparato, dal fisso sono passato al portatile, capito, però sempre con l'antenna esterna. Va bene adesso, va bene. Va benissimo adesso, ma anche Marino, ma l'ho sentito anche più bene altre volte, oggi lo sento leggermente che con le scarichette, però non lo disturba le scariche, capito? Vai Marino! Allora sono io Giovanni, lo so, mi sento il moto QRM, non lo so, probabilmente c'ho l'antenna umida, non lo so, c'ho anche Bacchisio, moto QRM, la modulazione è un po' bassina. Avanti Bacchi, come lo ascolti tu? No, tu arrivi bene, ogni tanto qualche scarica, però il radio sei buono. In mezzo a qualche scarica, capito, Romano? Se invece anche Graziano, sei rientrato dall'ufficio, Graziano. Guarda, anche Graziano, perché anche la mia cosa ascoltavo anch'io molto, molto basso, probabile che sono io oggi. Va bene, continuate, io rimango un po' in ascolto, dai, riprendi Giovanni. D'accordo Marì, fai pure, ya, siamo qua. Graziano, Bacchi, se farati, di me ci ha dimenticato poi su da un'ora da anzi. Catta, bisogna appirare l'autospurga a Spianino. Ciao, ah, ti chiamano e non risponde, non lo chiamano e rispondi. Bacchi. Buonasera, Graziano, ben ascoltato, avanti. Ciao Bacchi, se ben sentito, anche a te. No, me lo dai un pezzo di cioccolato. Hai te, il cioccolato la mangiere. Cazzo, ma quale tavolette? È grosso di centimetri. Soprattutto dice che fa dei auguri. Ah, ecco, allora si mette il cioccolato, vabbè. Non mangiano assai però, Già lo sai che fa di bella cosa e fa di bella l'altra. Bacchi. Sì, no, grazie. Prima il cioccolato che domani sera venga ciappati e poi rimaniamo il cioccolato. Ehi, affidati, no, grazie tagliato, ai nostri. Tre quadretti, che è grosso. A ci posso la dare, è con un cuscetto grosso, la ci ho fatta a pizza, e ne ho fatto due ziccari, non ci sei plastica, bianchi, una a me e una a Paoletta. Mi ha mangiato tre pezzi a rinunci e un pezzo a va. Ma si continua a mangiare la venere romana, io se vengo domani a sera, se mio marito, un bambino mi mangio. Stavo già finito ancora, e capito, ora mi mangio tutto il cioccolato. E vabbè, rimuni, lo disavo anch'io a mangiarlo, non ti preoccupare. Sacito, io vengo, e mi arrego pure un cognuro per regalare un pezzo in rito. Ehi, l'albero! È quello fondente, a me mi piace isso. Chi su niente che non carbori? Sì, andavi, c'è marito, niente contro i carbori, andavi per la testa. Niente, bianco, da che te dentro non si vede il colore, avanti c'è marito. Grazie, chi su, come te il carbone, non mangiarlo. Manda chi su il crema, chi su di mangiare che è buono, e ti fa svegliare i cuori. No, questo bianco al latte che lo mangia a Paoletta, allora è vero, a me mi piace più questo, è proprio fondente e naturale, era più buono. Vabbè, se piace a te così, allora mangia il burro tranquillo, allora non vi so problemi per noi, però bacchi. No bianco c'è già noi il cioccolato per domani, da voi non va via un turrone burro, ma per la mentola è messo, è regalato a un'amica di me figliuta. Era più mentola che turroni, Giommari. Ha detto te, io non avevo un mese a mangiare mio. Chi si già non lo mangio io, Chi si attacca tutta le denti, si attacca. L'ho solamente assaggiato, era più mentola che il turrone. E mi ha girato, mi ha messo la piscina, ha detto te, a voi, te. Mangia di là, a me non mi piace. Con tutte quelle mentole così non mi piace. Vediamo un po' se Tore ha finito. Tore, Bacchi ancora è già farato, Tore. Era andato a accompagnare la moglie, io la sova, 7-5. E si è andato a accompagnare la signora, oppure a pigliarla. Può darsi pure. Può darsi pure di andare a pigliarla, che rientrerà dopo, Allora, vabbè, noi aspettiamo. Vai, grazie. E non ne mangia assai il cioccolato. Che il cioccolato fa di male. Ehi, già non ne mangio bene, però già lo mangio, da un poco. Oggi sta moletta mi si è ferma a tre voci, prima era la doppia spina, si è aggiurampata. La ribottura si è tornata a bloccare, la diabete, i carboncini, viso, la ribottura si è giocata in terra, domani si darà, poi andiamo a comprare. Hai te, di Bacchi? Che mi arriva? Vila Paraggio, 20 anni, se non di più. Poi c'è anche il pulsante che di quella molletta lo devi tenere spinto, non è quello che lo schiacci e lo lasci. E secondo cosa sei bene, ti si cancare già l'udito a furia di mantenerlo spinto, capito? Sì, è una Black Decker o una Steyr, uno di questi due. Non me lo ricordo la marca, perché non c'è più scritto, ne era scritto un messo bambino. Ma Boroboro, 20, va là, più di 30 anni. Stavano a giubiliata, ha tagliato un messo di gomma con il dischetto in acciaio. Era funzionante, la poggi in terra, la torre a pigliare non funzionava più, vabbè, ha baito la presa. Campo la presa e la funzione di la mazza si cosa, non rapigliarle non funzionava più, l'apra mezzo i carboncini e i carboncini sono buoni, ha detto beh va, gli dammi le casse, ha rapigliato l'usichetto e ha aggiunto gli andassi che il pettuso gatto. Ma oggi stava tra con 30 la valigetta. Quando esce me la compare già, che tanto mi ha rotto le scatole. Devi mantenirlo che c'è interrogatore a chi. Se non vuole di si ferma. Metti mira lì alla litola che ti ha passata, le molette. Erano formidabili. E ancora ci sono, ci saranno ancora. No, ogni settimana cambiano, grazie. Infatti stiamo guardando il depliano adesso, l'ho trovato. Non ce n'è, molette non ce n'è. C'è solo coso, oltre la settimana ci sono pulitrici, roba per aspirare, per tutte quelle cavolate lì, roba per la macchina. Però di molette, roba di utensili non ce n'è. Non ci investe. Io l'ho comprata 2 mesi fa, 2 mesi fa l'ho comprata la moletta. Diciamo così, non è proprio come la mola che faremmo prima, è taglia in verticale invece orizzontale, capito? È bellissima, e si può mettere 3 dischetti, ti danno anche in dotazione, dentro la valigia. C'è quello per il marmo, quello per il ferro e l'altro per la legna. Il rischio Vidia per la legna. Già l'avevo vista in Depliam, quella... già l'avevo vista già. Ma basta che guardo, magari in mezzo dentro gli scaffali c'è qualche rimanenza. È vero. Un attimo al telefono. Avanti a vero. È vero. Vieni avanti a vero. È vero. Non è vero. Non è vero, a pelo grazia. Gruffo, c'ho anche a Bacchisio, beh, se prima niente, sì, a me ti intendo, mi sei massicchendi, quasi massicchendi. A me stai dicendo. E a te. Cioccolato fondente. Ebbene, non hai trovato vampiri a darti il sangue. No, ho capito, no. Vampiri a darti il sangue non hai trovato. Ciao Luca, buonasera. Il Graziano è in corso, domande straniere mi fa. No, siccome ti razzicchetti il sangue, Luca. E allora bisogna andare alla mattatoio a pigliare sangue. Era per un amico, dai, che deve fare un intervento a pigliare sangue, Graziano. Io non ho buttato la voce, sono andato a darlo alla buona nana di mamma, mi ha detto, mi ha fatto entrare, mi ha posato, ha leggito un nome e cognome, e mi ha detto, dove che vuole andare lì? E io, cosa vuol dire? A donare il sangue. Si alzi che lei non ne può donare, e perché non ne posso donare? Che lei ha avuto già un intervento agli occhi, dunque non fa... E mi sa cuttura. Sa chi ha subito un intervento? Siccome gli ho detto che devo fare un intervento, lo sa che non lo posso donare manco io, anche se lo devo fare a marzo, però. Devo informare. Se ha bisogno glielo do, non c'è problema, ci mancherebbe. No, io l'avevo già fatto l'intervento agli occhi, però mi era rimbassato un bel anno. E mi ha detto non c'entra niente, lei ha subito un intervento, il suo corpo ha avuto un trattamento, perché ha fatto anche l'anestesia totale, dunque niente da fare. Non è puro il sangue, capito? Vai Bacchi! È così. Ma dovrebbero dargli all'ospedale il sangue per l'intervento. Dovrò averlo lì già. Solo che non vogliono cavare quello di riserve, non le può educare. Meglio se risultiamo le persone. Va bene. Anche quello lì è un dovere da fare. Vediamo se è arrivato Tore. Tore, fatelo un comodo, grazie. Non risponde. Ciao Maria, avanti. È un attimo al telefono, sono Max. Continua. Bussa quando devi entrare, grazie a vai. Anni fa quando ero giovane già l'ho donato il sangue prima dell'intervento. Anche mia moglie fino a poco tempo fa lo donava. Poi però no, gli hanno detto che non lo può più dare perché è asmatica. E anche quello è un altro problema, asmatica. Capito? E per un intervento no. E uno che ne ha subito tre cosa deve fare? Non ne puoi donare, ha avuto interventi, non ne possono dare, anche se c'è malattie, secondo le malattie è, te lo dicono loro, perché guardano al computer, se tu lo vanno che vuole donarlo. Una volta c'è dentro ti chiede il nome computer, fa la ricerca al computer, esce subito di scritto se lo puoi donare o non lo puoi donare, e te lo dice, capito? E te lo dice prima di arrivare, come conoscendo il computer lo sa già, che sono fabbrico. E neanche i fabbrici lo possono donare, già lo so già, solo che è sano fisicamente lo può donare, allora chi ci piace l'ubigliare? E forse è gratis l'ubigliare, grazie, è gratis, lo vogliono, è quello che aspettano. L'ha proprio fatta. Avanti Luca. Luca si è allontanato. Vediamo se Tore è rientrato. Oh, Tore, sarà c'era Midegni, una figliuta o una moglie. però è un buono. Se chi è sano lo dona, fa un'azione buona, perché come ti lo doni, magari un domani poi si fa pure a te, l'hai compreso. Dunque, è una cosa buona che uno lo dona, se è sano. Essere sano, in piedi, in testa, capito, per donare il sangue. Io sono mio suocero, lo donava. Lì c'era un cavallo era. Anche mia moglie, mia tante, mi dice domani devo andare a dare un sangue, e andà zia. Anche io l'ho dato quando stavo lavorando che non avevo subito l'intervento, capito? E l'ho donato anche io, poi che ho avuto l'intervento agli occhi, no, non lo posso più dare. E vabbè, già ne procura, lo dà. Già ce n'è gente che lo dona, a Puglia. Ce n'è sì, ci sono anche i donatori, è tutto, capito. Vediamo un po' se il signor Tore è rientrato. Signor Tore. Aspetta, rientro subito che è venuta mia Puglia e batti. Vai pure, grazie, vai, siamo qua. Ehi, ehi. Allora, Luca. Battisio! Ma sai quanto ho cambiato carica e ho messo quell'altra antenna e adesso è già 1,58, 1,56. Se hai provato a abbassare ancora? Ho abbassato ancora e mi sale. E con quell'altra carica là cosa ti dava? 2, 2 e 1. Buono, 2 e 1, potrebbe calare ancora, Sì, se la pongo più bassa alzata di più. È lunga da qualche centimetro. Ho provato di tutto, sempre a 2 rimane. Addirittura. No, adesso voglio misurare queste qua, in questa stazione qua. In questa antenna sto usando adesso, perché mi scalda il PL parecchio. Aspetta, scalda il PL, come ti mai? Allora ci deve essere qualche cosa in corto. L'antenna dove si sia andata, quei giorni di vento, qualcosa in antenna c'è. Qualcosa in antenna vuol dire che è andata in corto, deve essere andata qualcosa. Che scalda, quando parlo scalda maledettamente. Capito, adesso era un po' quello che stavo parlando, adesso è raffreddata. Adesso continua a parlare e si scalda piano piano. Capito? E tu adesso cosa stavi usando? Quello stilo che hai provato? O no? No, sono con i, con quella di fuori, con l'antenna grande. Chi è che c'è sotto? Io ho detto a Bacchigi, allora ci sono stazionari e si scalda la radio. Via Graziate, vuoi avere stazionari al 100%. E dall'altro giorno che sto uscendo sul distorto, basso, tutte le cose qua. Tutti i becchi di Zia Chirica. Ci vuole il rosmetro, devi controllare. Occhio, alla penna, diglielo tutt'ore. Non c'è bisogno che glielo dica io, già lo sa. Aspetta che io adesso vado su, prendo lo spettatore del capo e mi sono le stazionarie qua. A vedere cosa mi dice. Ehi, vai. Dopo ce lo dici. Anda. Grazie. Ehi, un casino a regolarle, quando è così, è quello. Ah, penso di sì. No, perché a me l'altra volta con Pomponio a casa sua, fuori, giù, nella macchina, l'antenna non riusciamo a tararla, un po' sopra di la usci, un po' sotto di la usci. E poi invece era risultato un filino di niente che toccava il centrale. E dopo allora abbiamo dovuto rifare tutto il PL nuovo, le saldature e tutto, che toccava un filino di nuda e metteva tutto fuori fase. Sì, fa così. È roba da non credere, vedami ore, poi alla fine l'ho smontato e c'era un filino proprio, ed era da lì, per carità. Sì, grazie, è così, fa così. Un casino, ecco. Vabbè, avanti non agio più, in macchina non mi agio più, non mi interessa, basta. Allora, signor Bacchi! Sì, dottore! No, è fuggito! Che facendo c'è? No, è scappato! Non mi dici! Grazie, non mi se si dà da va! A questo! È sicuro! Oh yeah! Sono guardare 7 mesi in terra! Oh yeah! Ehi, scidato da 5 mesi il comandante. Ehi, scidato non ne va a vedere, mi pare di 4:20, un orario del genere. E lo dormite mi ha scidato una pizza, la banza, dice, ma in canna mi sono guidato. Buonasera a tutti. Ebbene, signori, buonasera. Buonasera a Santa Maria. Ebbene, Vittu, buonasera, è l'iniziatore, Graziano e Bacchiglio. Allora senti, tu? Oh, acquarem è un bel mezzo. Mettiti un foglio di carta per essere più in alto, se no non ti sento qua, Vai, Graziano. Chiamami! Chi è? Ciao Luca, Vittorio è. Dov'è che non l'ho sentito? Vittorio, dove sei? Ciao, grazie! Adesso ti ho sentito, ben sentito! Vai Luca! Luca mi sembra che sta pappando ogni tanto, cade un filino mosso. Da voi entra, da voi banca. A me mi pare che fai strano amore. Fatti su, dicelo lui. Non risponde, Bacchi riprende tu dai. Deve essere sceso ancora Giomari. Giomari chi era? Non l'ascolto bene io. Vittorio era. Vittorio è. Buonasera Vittorio, io non ti ascolto Ciao. Ah sì, adesso ho sentito letto. Oh, in mezzo a QRM lo sento, disturbato proprio. Vittorio, dove sei adesso? laboratorio. Al laboratorio, ah, ecco. E sei vicino allora, ecco. A me mi arriva un po' da scala, Luca! Sì, scusate, stavo ascoltando un messaggio per un lavoro, dai. Sono qua. Parla, se fate il lavoro, molla tutto. Sì, un lavoretto devo fare, dai, piccolino. Ciao Vittorio. Ciao Luca. Tutto a posto, niente d'ordine. Dottore. Dai. Io purtroppo a qua ando a lavorare. Dottore. Sì, un attimino, Gianmari. Va bene. Vai, grazie, vai. Ehi, penso a studiare, se no a lavorare te ne c'è la canna da adesso. Andi bene, fatti la scuola e fatti, poi vai a lavorare, con il diploma. Il diploma ci vuole per lavorare. E allora, oggi vuole un diploma pur a far Mondadori. Oggi è tutta a base di diploma. Prima per fare un Mondadori non vi vuole la nuda. Avanti si vuole un diploma. Fa tutto vuole un diploma. Ma è giusto che debba sapere, che sappia leggere, ragazzi, allora. Prima non sappia le regie, fa il Mondadori e non dava bene. Ah, vai, invece, pa, se sei Mondadori devi sapere leggere cosa è in terra, cosa non fa. E allora, devi sapere l'inglese, lo francese, come ti chi gli raccogli in francese o in inglese? Il culo è di chi sono macchi, per carità. Via. Vabbè, dai Lu, ripilatela tu dai. Luca non la prende. Ma chi se mi sembra che ha telefono, ma chi? Deve essere al telefono con Tore. Così che riprendi Vittorio, dai, Vittorio è attaccato con Lubredi. Giomarì, sono rientrato. Aspetta a vedere se è rientrato Bacchisio. Bacchisio! Aiutore, illuminaci, dai! Finita là in questo antennino! Ci buttano a basso. Boh, basta, va su così. Domani provvedo. Se allungarlo a farlo di 20 cm o farlo appena più corto. Comunque, ci riprovo. Prova, bisogna provare. Cazzo, provendi, si acciappa il buzzo giusto. Devi fare così, sennò è chi dà ragione. Come te Graziano, Graziano fa così. Ogni tanto entra in bagno e da voi si arrangia di bene, vero Graziano? Ehi, prova. Domani io provo, andami la compagnia di nuovo e posso prima. Ma figurità. Vabbè, io ci non so problemi. Ma che tu hai ragione. Dirà oggi, è chi dà ragione, bisogna stare attenti pure, bisogna sapere maneggiare, anche se no fuggire subito. Adesso me li mi ascolti adesso. Ma che io ti sento bene. Più o meno poco fa eri più forte, ma adesso ti sento più bassa, però ti sento bene ugualmente. Questo che prendo l'altro. Però puoi mettere un po' di papiro sotto, Prova, Bacchi. Ciao Maria, da poco una signora in soffitto ha avuto roba di 6 o 7 valigie, tutti pieni di dinà. Lo zio ammacciava dinà. Tutti lì, la lira, no. Beh, è andata in banca e l'hanno detto che è carta straccia. E chi ti fa già lo morto di fame della frase quotidiana? E cosa ne ha avuto? Va, sarebbe un lappato tutto allo fuoco. Ehi, è già un mese fa l'arrivato, visto? Cazzo, ne ha avuto poco della sua cante milionina, ragazzi. E non servono più quelli lì, così che non... quelle può bruciare direttamente perché lo Banca Italia non accetta più di quella roba, quella è tutta mondezza adesso. Ehi, ma dico, vedo rimbambito, fanno così ciri, si l'ammacciate, oppure dalle aiuta a Tony Botti, cosa ne so, figliori, ammacciate, e poi cosa ammacciato, bannuta. Chissà di tante cose se è privato, mamma c'ha a razza di salvetto. Bravo io. Bravo io, magari lo mangiava chissà. Ma lo andava in bagno. Era, poteva vedere la base. L'ha fatta la cuccata. Tore! Ehi Gianmarie, dimmi. Hai teso su questo fatto di questa persona che. Che in realtà ha acchiappato mi pare 200 milioni mi pare era o di più catta in linea però è andato in banca dove ha detto a bruciare l'hai detto io ormai non si viene più non si viene sarà andato un paio d'anni fa sì forse sì ma non si viene più no infatti non ho letto che può bruciare direttamente che così è graziato. Eia, arra, io dico ci sarà Bussurenni 30 la tumba chissù, si ha visto una cosa del genere, roba macchina, quella è l'ingordigina mia, e cosa ne ha avuto? Nuda. E meglio si crederà che si tributava appresso lì là. Invece no, l'avevo pensato che lo sa da sabato tutti i chivi. È la macchina dalla povera, cazzo, invece no. Vabbè là. Signori, dai, vi devo salutare e chiudo io. A domani, se Dio vuole. Per cui, Tore, buon procedimento, Tore, ci sentiamo a domani. Ciao Luca. Ciao Bacchisio, che se ne ascolta ancora. Ciao Graziano, riprendi tu Graziano, vi ascolta per il finale e chiudo, vai. Ok, ciao a tutti. Eia, ciao Gio Maria, buona cena, saluti. La 50 anche da parte di Rossi. A domani se coincide. Vai tu, Tore. Eio. Ciao, ma. Oh, beh, Gio Maria, ci sentiamo domani se tutto andrà bene. Ok. Riprendi Bacchi. Sì, aspetta, sto toccando il rovetro. Io non lo sento Bacchisio. Buonasera Marino. Buonasera, ci vediamo domani Bacchino Giovanni. Se coincide ci vediamo domani. Bene, io Bacchisio non lo ascolto, né Luca, ma Graziano si è perso. Avanti, Bacchisio se mi sta ascoltando. Marino, ti sento in mezzo al QRM, se mi copi. Ma ti copio, caro Graziano. Oggi sono piccolo e piccolo. Chissà perché, forse che sono umido oggi. Vero, Tore? Ma con me vai benissimo. Arrivi bene qua. Io ti ascolto, ho una modulazione limpida a te. A Giamaria ho QRM, a Graziano oggi lo sento un po' strano, nel senso un po' di QRM anche lontano. Bacchisio poc'anzi ascoltavo, adesso negativo, a Luca negativo, boh, adesso non so se dipende, a me o dipende da voi, non lo so, avanti, torna a girare. Sì, ok, andiamo, boh, andiamo bene, da me arrivi perfetto, all'altri arrivi in mezzo al QRM, a Bacchisio non lo so, che stava staccando il rosmetro, e vabbè. Signor Bacchisio! Sì, 19.99, per forza sta bruciando tutto. 19 virai, che rotta che andiamo a vedere? Infatti, le antenne esterne, stanno funzionando male. È stato che il suo vento, te l'avrà imburigata. Tutto mi, bello bene. Bello bene, ti sento molto male anche oggi, mi, bello bene. Oh signor Marino! Ma io non intendo nessuno, ma Bacchisio modulano sta, ma solo a te ascolto io oggi, è a Graziano, ma sono, non ho capito perché, avanti to. A te li sento chiarissimo, senza nulla di QRM, alle altre QRM al massimo, avanti. vuol dire che sono in mezzo al QRM, ma io Graziano lo sento bene, a Bacchice lo sento bene, a te ti sento bene, non lo so, forse da quella parte sentirei un po' male allora, andà bene, no, sono con il portatile, anzi Graziano dovrebbe arrivarti bene lo stesso perché è più in alto di me. Beh, se oggi l'ascolto un po' un po' male, non lo so, male se non l'ascolto oggi, forse oggi la zona mia è negativa, oggi la zona mia è negativa, non ho capito perché anche Gio Maria, poc'anzi noi l'ascoltavo molto bene Gio Maria, sempre sottofondo di quel QRM, ascolto pulito solo a te oggi. Bene, avanti Simone Bacchisio, anche se non ti ascolto, avanti. E chi? Pure anche lei che si muove. No, non è Fabio Denni. E chi siamo? Adesso, aspetta. Beh, dai, siamo durato, non ho visto il LED che si è acceso. Ma molto correme, Bacchi, molto correme. Adesso non so quasi sono io, oggi la zona mia è negativa, non lo so. Perché ascolto chiaro solo a Tore oggi, Anche a Graziano noi l'ascolti molto, molto bene, non lo so. Probabilmente sono io. Avanti, Graziano. Negativo Bacchi, sempre molto correme ciò. Molto correme, avanti Graziano. Marini, io devo chiudere perché 19.99 siamo stazionari. Non ho capito nulla, Tò cosa ha detto Bacchi, dove io ho molto correme, non riesco a capirlo, avanti Tò. Ha detto che deve chiudere perché c'ha 19.99 di stazionario. Solo, così poco. Chiudi tutto Bacchi, già ci vediamo domani, dai. Beh ragazzi, io chiudo là, Tore, Bacchisio e tieni ascolto, Marino se mi senti, Vittorio ciao a tutti, a domani, ciao ciao, Tore mi copi? Sì, ciao Graziano, buona serata, non so se mi ascolti. Tore, mi ascolti adesso? Sì che ti ascolto, anche poco fa ti ascoltavo. Io ti ascolto sempre. Adesso sto andando con una Grand Plain messa sul tavolo, con 2 metri di cavo. Una piccola Grand Plain sul tavolo, con 2 metri di cavo. Non so se Marino mi ascolta, è difficile. Non lo so, non so se ti copia. Marino! Dimmi, Tore. Lo copia Bacchisio? Negativo, adesso non l'ho copiato. Poc'anzi sentivo la portante col QRM e a lui come sottofondo. Ciao, grazie, ben sentito, a domani se coincide, stavo in casa, dai. Poc'anzi, QRM, a lui sono... No, Marino non arriva, ma qui lo sento. Aspetta, Luca, che sta parlando Marino. Hai compreso, Maria, se non l'ascolti allora vuol dire... è più perché sta andando con l'antenna dentro casa. Ho capito, va. Ma anche poc'anzi, anche Graziano sentivo, sì, lo sentivo Graziano, però molto... molto correme, però se si era oggi la zona mia, anche a Gio Maria mi sono ravvegliato, molto correme, non so se stavo usando il gommino, non lo so Gio Maria, ma molto correme, però se oggi la zona mia è negativa, avanti Tò, fa girare, Sì, va bene, non ti preoccupare, adesso è meno oggi. Grazie, ma chiuso hai? Ehi, sto chiudendo! Ok, ciao, grazie, ci sentiamo domani se tutto va bene. Riprendi Luca. Aspetta, grazie, sto portando la faina con la cipolla. No, stanotte non ne ho voglia, c'ho altro da cenare. Aspetta, portalo la faina. No, stanotte non ne ho voglia di cenare a faina, ti vado a bruciare di manza. Babbo, ciao, grazie. Ci sono appena arrivato, sono andato a fare la spesa. Ehi, ciao, salutoni anche da parte di Rosa, a te a Marina, ciao, salutami cagnolini, ciao. Sì, il mio è a casa, va bene, ciao, Marina ricambia, ciao. Ok. Io non lo sento a Marino, Cioè, lo sento, devo mettere praticamente il portatile messo in orizzontale, un po' lo sento. Ma chi è che senti in orizzontale? Sì, no, sono un litro all'interno, cuccato, un po' lo sento. Andiamo. Dai, andate. Bacchisio. Ma sei un signore di cuccare un muro, Sì, sì. provando un'altra cosa, un altro spettone per un po', non c'è lo spettone che è andando a mala. Bubù, oggi è proprio la di buona, eh. Ore. Ehi, Amari. Aspetta, se no io la chiudo, perché... Mi rimango poi ascolto qua, altre cose, là. Ok, ciao, tu hai sentito, sentiamo domani, se coincide. Ciao, anche a Bacchino, se stai ascoltando, ciao a Luca, e domani si coincide, Bacchino. Ci sentiamo domani, dai, avanti, ciao. Ok, ciao, Amari, ci sentiamo. Alle prossime. Andà bene. Luca, riprendi. Cioè, Marino ti sta salutando. Non lo sento. Contraccambia, saluto. Non lo sento, Tore. Andà bene, tu pure non lo intendi. Vabbè. Bacchi, tu lo senti a Marino? Sì, ma Bacchi. Un altro, Bacchi. Niente, Tore, niente, niente. Zero di cosa c'è. Io chiudo perché è inutile stare lì. C'è un mucchio di capo che avrei come stare qui. Adesso mi bene, ciao Tore, salutissimi, ci sentiamo domani. Ciao Luca, buona serata, buon consiglio ancora e a domani. Bye bye, tu resti per me. Ok. Mari, ti ha salutato Bacchisio, Ciao Bacchi, ci sentiamo alle prossime. Ok, riprenditi Luca. Un attimo, te lo dico a Luca che... Ciao Bacchi, da, saluto e buonasera anche a te. Lo passo a Bacchisio, sei per solita ora, vai. Riprendi Torda e passali a Luca. Ehi, cosa stavi dicendo? Che vai da Bacchisio alla solita ora dell'altro giorno. Che c'ho con la commissione per Luca, c'ho, vai. Ehi, ok, Luca, hai sentito? Ha detto che c'è una commissione per te. Te la porta da Bacchisio. Allora io domani mi carico la roba là che gli avevo detto, me la metto in macchina e dobbiamo andare a fare un lavoretto domani mattina. Poi appena finisco passo, se ce la faccio. E se no sabato. Hai sentito Mari? Se fai in tempo passa da Bacchisio a quell'ora di mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo. Sennò è sabato. E vabbè, io lo faccio a Bacchisio pure, se lo vuole fatto, non c'è problema, se l'ho già caricato in macchina intanto, adesso già in macchina, così domani lo schiavo lo faccio, vai. Ok, va bene Bacchi, va Mari, ci sentiamo. Capito hai Bacchisio? Luca, hai capito? No, non lo sento. Ehi, ha detto che la lascia da Bacchisio, poi quando vuoi passa e te la prendi. Sì, intanto devo portargli quelle antenne che le servono, a me non mi servono. Vabbè, fai così. Vabbè dai, se sei vennegosa ti lascio tranquilla anche a te, ok? Ci sentiamo Luca. Sì, vedi, tanto adesso andiamo a cenare, dai. A domani se Dio vuole, dai. Ciao, buona cena, a domani, ciao. Ok, ciao Luca, stammi bene. Sì, ciao, ciao, altrettanto, ciao.